2024. Vincitore dello European Podcast Award, il premio ai migliori podcast europei. 2024 di Enrico Pagliarini. Ed ecco a voi la puntata del 24 e 25 agosto 2013. Benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Come sempre, grazie ai nostri ascoltatori che ci ascoltano in podcast, che hanno scaricato il file MP3 della nostra trasmissione. Molti ci ascoltano in automobile, altri ci ascoltano mentre corrono, fanno jogging, oppure anche mentre pedalano in bicicletta, anche se non so se in questo caso il codice della strada dice che si può fare, però se tenete il volume basso, insomma, lo si può fare. Il nostro indirizzo di posta elettronica, se volete comunicare con noi, è 2024@radio24.it. Potete comunicare anche tramite Twitter, tramite Facebook o nell'ultima settimana c'è anche chi mi ha fatto presente che, visto che metà della popolazione ancora non naviga in internet, ma magari ci ascoltate via radio, beh, potete anche scrivere una bella lettera di quelle di una volta. Il nostro indirizzo è Viale Monterosa 91 Milano, presso il Sole 24 Ore. Sicuramente la notizia della settimana riguarda la Microsoft, in particolare l'annuncio che alcuni definiscono a sorpresa di Steve Ballmer, che è l'attuale amministratore delegato, il CEO, Chief Executive Officer, di uno dei più grandi produttori di software del mondo, settima azienda per capitalizzazione nel mondo. Allora, Steve Ballmer è un omone molto grande, matricola numero 30 di Microsoft, è all'interno dell'azienda dal 1980, quindi la conosce piuttosto bene. Ha ereditato la poltrona di amministratore delegato da Bill Gates nel 2000. Steve Ballmer sicuramente non ha mai avuto un buon feeling col mercato ed è anche per questo motivo che la borsa ha festeggiato e non poco il suo annuncio. Ma soprattutto a lui vengono attribuiti i flop dell'azienda negli ultimi anni. Dopo lo sfortunato Vista, anche Windows 8, che vende meno delle previsioni, è atteso un aggiornamento molto importante nelle prossime settimane, Windows 8.1. Beh, non vende nemmeno bene Surface, il tablet di Microsoft, Bing, che non riesce a fare concorrenza a Google. Devo dire che Bing non è male, però nei fatti non riesce a fare concorrenza ai servizi di ricerca di Google. E poi c'è tutto il capitolo della lenta crescita nel mercato degli smartphone, notizia di una decina di giorni fa che Microsoft nei sistemi operativi per terminali mobili è riuscita a superare BlackBerry, però, come dire, non è che sia un grande risultato vista la discesa molto forte del sistema operativo. Siamo poco più del 3% per Windows Phone, se lo confrontiamo però con quote di mercato incredibili di Android e molto importanti anche di iOS di Apple. Un mese fa Ballmer aveva lanciato la nuova organizzazione One Microsoft, che non è più focalizzata su prodotti software ma su servizi e terminali, devices e services, quindi molta attenzione verso gli smartphone, i tablet, le console da videogioco e tutti i servizi che ci girano attorno su web, cloud. Quindi adesso tutto ciò dovrà essere preso nelle mani dal successore che verrà scelto da un comitato creato appositamente, di cui fa parte anche Bill Gates. Vedremo e speriamo che facciano presto per capire anche quali saranno le mosse future di questa azienda, che comunque, dicevo, è ancora una grandissima azienda, settima per capitalizzazione nel mondo, fattura 78 miliardi di dollari, ne fa 22 di ricavi. Direi che i ricavi così si fanno solo nel software. Però sotto la guida di Ballmer ha perso più del 50% del proprio valore, anche perché altri sono cresciuti molto. Comunque, sicuramente Ballmer poteva fare molto meglio, ma c'è un dato che giustifica anche questo annuncio. Ballmer ha 57 anni, ha vissuto 33 in azienda, forse è venuto il momento di godersi la pensione, anche perché pensate che Ballmer è il 19esimo uomo più ricco secondo Forbes, ha una ha una ricchezza stimata da Forbes in 15,2 miliardi di dollari. Una decina sono in azioni, quindi le deve vendere prima di avere i soldi, però sicuramente insomma è una bella ricchezza per andare in pensione. Vi annuncio che dal 6 all'11 settembre si tiene, come ogni anno, alla fine dell'estate, diciamo l'estate finisce un po' dopo, ma di fatto comincia a essere freddo soprattutto a Berlino, l'IFA, che è oramai diventata la principale fiera europea dell'elettronica di consumo. Nulla a che vedere con il CES, il Consumer Electronics Show, che si tiene a Las Vegas all'inizio dell'anno, ma sicuramente molti produttori sfruttano Berlino come palcoscenico per alcuni lanci di nuovi terminali, nuovi prodotti. Allora, sicuramente in lista tra i principali produttori ci sono Samsung, Sony, HTC, che dovrebbero presentare qualcosa nel segmento smartphone e tablet, o qualche cosa di mezzo, come ad esempio il Galaxy 3 di Samsung, che non è un tablet ma non è nemmeno uno smartphone, è qualcosa che sta a metà. Come succede spesso, le aziende non aspettano l'inizio della fiera, ma la maggior parte delle conferenze stampa si tengono un po' prima, vogliono anticipare il 4 e il 5 settembre. Comunque noi nella puntata del 7 settembre vi racconteremo tutte le novità che riguardano l'IFA di Berlino. In alcuni dicono che Samsung utilizzerà l'IFA per presentare il suo primo smartwatch. Si fa un gran parlare di questi orologi evoluti, questi orologi smart, che alcuni sono già entrati sul mercato. C'è anche un prodotto italiano sul mercato, l'iWatch, l'Am Watch. Poi vedremo se tutti gli altri grandi produttori di elettronica di consumo seguiranno. Devo dire che in un'epoca in cui in molti si sono tolti l'orologio, perché di fatto l'orologio è diventato lo smartphone, non so se questa mossa sarà una mossa vincente. Vedremo poi anche che cosa farà Apple, se annuncerà un iWatch, un orologio smart nella sua gamma di prodotti, che dovrebbe essere presentata il 10 settembre. We just believe that everyone deserves to be connected and on the internet, so we are putting a lot of energy towards this. Quel che sentite è la voce di Mark Zuckerberg, il fondatore di Facebook, che dice: tutti meritano di essere connessi alla rete internet, e per questo ha lanciato una campagna, una iniziativa che si chiama internet.org. Allora, l'obiettivo è portare internet ai 5 miliardi di persone al mondo che al momento non hanno accesso alla rete. Il progetto è supportato da altre grandi aziende come Ericsson, Nokia, Qualcomm, Samsung. Allora, Zuckerberg ha spiegato in un documento di una decina di pagine pubblicato sul suo profilo Facebook che, secondo lui, la connessione è un diritto umano, e attualmente nel mondo sono connesse solo 2,7 miliardi di persone, poco più di un terzo della popolazione mondiale. Beh, sicuramente sono parole in buona parte condivisibili. È un diritto oramai poter dialogare, leggere, informarsi, diffondere le proprie idee, scambiare le proprie idee con internet. Allora, questo l'obiettivo di queste aziende coinvolte nel progetto è trovare soluzioni per tagliare il costo di internet su terminali mobili nei paesi in via di sviluppo. Ad esempio, realizzare tecnologie più economiche, compresi smartphone a basso costo, creare modi per portare l'infrastruttura internet dove oggi non esiste. Rendere più efficiente l'uso dei dati, questo è importante, direi che sia diciamo infrastrutture e terminali più economici, ma anche una maggiore efficienza nell'uso dei dati sono obiettivi che sono auspicabili anche nei paesi già sviluppati e non solo in quelli in via di sviluppo. Vorrebbero queste aziende creare applicazioni che siano più leggere, utilizzino meno dati per accedere ad internet, sviluppare sistemi di compressione dei dati, eccetera, eccetera. Da più parti però sono stati sollevati dei dubbi che ci sia solo filantropia dietro a questo messaggio, questa nuova campagna. Chi pensa che internet.org sia solo un'iniziativa benefica, beh, probabilmente sbaglia, perché questa azienda, come molte altre aziende, sono alla ricerca di nuovi consumatori, nuovi mercati, anche perché devono fare i conti con i mercati già saturi d'Europa e degli Stati Uniti, e quindi devono andare a cercare nuovi mercati, e quindi dipingono con questa dipingono di verde per quanto riguarda l'energia, di rosa per quanto riguarda la filantropia, queste campagne, ma sicuramente sono anche la ricerca di nuovi consumatori. C'è un altro grande progetto per portare internet alle persone che ancora oggi non lo possono utilizzare, si chiama O3B, sta per Other 3 Billion, quindi gli altri 3 miliardi di persone che ancora non hanno internet. Allora, in questo caso si tratta di portare solo l'infrastruttura internet e si è pensato di utilizzare i satelliti ad orbita bassa, che quindi non richiedono grosse infrastrutture a terra per essere i cui segnali non richiedono grosse infrastrutture a terra per essere ricevuti. Allora, 4 satelliti sono già stati lanciati, quindi qua si tratta di capitali molto ingenti investiti in questa azienda. Gli altri 4 satelliti di O3B andranno in orbita con una Soyuz dalla Guyana francese il 30 settembre. Adesso abbiamo alcune notizie in breve della settimana. Digital News. Iniziamo da una notizia che riguarda Canonical, la società che distribuisce Ubuntu, che è una delle versioni, una delle distribuzioni più note di Linux. Dunque, il tentativo di raccogliere 32 milioni di dollari tramite una piattaforma di crowdfunding, quindi per la raccolta di fondi, è fallito. Questo era un tentativo il cui obiettivo era produrre Ubuntu Edge, uno smartphone con sistema operativo Linux Ubuntu. Allora, Canonical ha raccolto 12,8 milioni di dollari, che è comunque un record. Questi soldi verranno restituiti agli utenti che hanno contribuito, si tratta di circa 20.000 utenti, perché non è stato raggiunto l'obiettivo dei 32 milioni di dollari. C'è chi dice che questo obiettivo era troppo ambizioso, quindi è stato fatto apposta per dimostrare che comunque attorno al progetto ci sono migliaia di persone pronte a pagare e spendere per avere un telefonino con Linux Ubuntu. Digital News. Google, tramite il suo fondo di Venture Capital Ventures, ha investito, pensate, 258 milioni di dollari in Uber, l'applicazione per smartphone che serve per prenotare taxi e auto con conducente in 35 città del mondo. Nonostante le contestazioni in alcune di queste città, compresa Milano, ma poi è stato trovato un accordo, il business di Uber e delle altre società che sfruttano un'applicazione per prenotare taxi, e questo quasi sicuramente sarà il futuro di questo sistema di trasporto, però il business di queste società sta crescendo moltissimo. Uber in generale e in totale ha raccolto, pensate, 360 milioni di dollari di finanziamenti. Digital News. Google ha acquistato dalla Foxconn una serie di brevetti che riguardano display pensati per essere indossati sul capo, quindi in testa, e attraverso i quali immagini virtuali possono essere visualizzate in sovrimpressione su quello che l'occhio vede in ogni istante. Beh, se avete visto i video dei Google Glass, si tratta proprio del brevetto che sta alla base del piccolo display dei Google Glass. Questi brevetti infatti verranno utilizzati per produrre gli occhiali di Google che verranno realizzati dalla Foxconn in un impianto produttivo in California. Parliamo di Electronic Arts, uno dei più grandi produttori di videogiochi nel mondo, che ha introdotto una nuova garanzia per i videogames, è molto interessante, la Origin Great Game Guarantee, che modifica i termini di contratto del servizio di vendita di giochi online e permette all'utente di essere risarcito se non è soddisfatto del gioco. È possibile chiedere il rimborso entro 24 ore dalla prima volta che si è avviato il gioco, quindi da quando si avvia l'applicazione, o comunque entro 7 giorni dall'acquisto se non si gioca subito. Altra notizia che riguarda il mondo del videogame: Sony ha annunciato che la PlayStation 4, c'è molta attesa per questo nuovo prodotto, arriverà nei negozi italiani il 29 novembre, prezzo d'entrata 399 euro. Sapete che non è facile cancellarsi da servizi web, facilissimo iscriversi, ma molto difficile cancellare tutte le nostre informazioni. In alcuni casi è impossibile. Ho provato a cancellarmi da Pinterest, perché non lo usavo mai, ed è impossibile. Si può solo disattivare il proprio account, ma le informazioni rimangono nei database dell'azienda. Comunque, molti servizi permettono la cancellazione, però il link alla cancellazione è molto nascosto, difficile da trovare. Allora, uno studente inglese ha creato un sito che si chiama Just Delete Me, quindi è justdelete.me.me, dove vengono raggruppati e messi in evidenza i link delle pagine dalle quali è possibile cancellarsi da circa una trentina di popolari servizi. Ci sono nomi, quindi link a Facebook, Amazon, Google, Yahoo, Skype, iTunes, eBay, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è 2024, siete su Radio 24, 2024 vi aspetta tra poco. 2024. Tra poco parleremo di sanità digitale, e-health. Ne parleremo con Tom Sutton, che è l'esperto di questa materia all'interno di Frog. Frog è un'azienda che in tutto il mondo si occupa di design, ma anche di sviluppo di nuovi servizi e nuovi strumenti. E sicuramente quello della salute digitale, che parte dallo smartphone per poi allargarsi a mille servizi, è un aspetto e una evoluzione estremamente interessante per i prossimi mesi e i prossimi anni. Volevo solo ricordarvi una serie di notizie che abbiamo seguito in settimana. Negli ultimi giorni ci sono stati blackout o problemi molto seri a grandi siti internet come Google, Amazon, eBay, e molti dei nostri ascoltatori, molti dei consumatori si saranno accorti di servizio, comunque avrete letto, sentito le informazioni. Ma sicuramente ha fatto più notizia lo stop di 3 ore, pensate, 3 ore al Nasdaq, una delle più grandi borse al mondo, successo giovedì, dovuto principalmente a una che io chiamo una deriva della finanza, che si chiama high frequency trading, che mette sotto pressione le piattaforme informatiche delle grandi borse. Qua stiamo parlando di computer, calcolatori giganteschi che sfruttano tempi di acquisto e di vendita in frazioni di secondo per lucrare sull'aumento o l'abbassamento di un titolo azionario. Pensate che si gioca su frazioni di secondo così veloci e così piccole che i nuovi data center delle società che si occupano di high frequency trading, quindi trading ad alta frequenza, vengono realizzati e costruiti vicini alle piattaforme informatiche delle borse. Quindi se in un punto c'è il data center di una della borsa, queste società, proprio per non dover subire latenze dovute alla distanza, talmente è estremizzato tutto questo sistema, costruiscono il data center molto vicino a questa infrastruttura. Cosa incredibile. E quindi questi sistemi stanno mettendo a dura prova le piattaforme informatiche delle grandi borse, e giovedì è successo quello che abbiamo commentato anche all'interno di GR24, questo stop di 3 ore al Nasdaq. Thomas Sutton ci ha raccontato in un incontro che abbiamo avuto recentemente che cosa sta succedendo, partendo dagli smartphone, nel mondo della salute e della sanità. Questi strumenti sono già oggi, perché ci sono già alcuni servizi attivi, ma saranno sempre più uno strumento utile anche per misurare quello che noi facciamo tutti i giorni, o misurare alcune delle caratteristiche del nostro corpo. La caratteristica più importante del smartphone è che è con noi tutto il tempo. Nel mondo, diciamo, della salute, questo è fondamentale, perché la salute si gestisce tutto il tempo. Sono le scelte quotidiane che alla fine definiscono la salute, e quindi avere un oggetto collegato, quindi che riesce a collegarmi a sistemi di dati e anche a device che utilizzo, che è con me tutto il tempo, ha un effetto trasformativo su quello che può essere fatto in mobilità o in casa dal punto di vista della salute. Quindi che va da cose banali, tipo quando misuro la pressione a casa, questo viene trasferito automaticamente al telefonino e può essere consultato online sia da me sia dal mio medico, e quindi non dobbiamo più scambiarci i pizzini per sapere come è stata la mia pressione tra una visita e l'altra, al tracciamento continuo della mia attività, di cosa mangio o di altri parametri vitali nella vita quotidiana. Ci fai degli altri esempi perché quello della pressione è sicuramente un esempio molto facile da comprendere. Ci sono appunto dei misuratori di pressione che si collegano allo smartphone e quindi possiamo in questo modo tenere traccia, grazie alla capacità di elaborazione dei dati di computing dello smartphone. Che cos'altro si può fare? Già di concreto o di cose che voi sapete e vedete che il mercato sta pensando e progettando per i prossimi anni? Già di molto concreto, ci sono sistemi che riescono anche a misurare e tracciare il momento di automedicazione, quindi il momento in cui io prendo una pillola o il momento in cui io mi faccio un'iniezione o un'inalazione di un farmaco. Questo viene tracciato e trasferito al telefonino e poi quindi al sistema di gestione dei dati, quindi che può essere un microchip minuscolo attaccato alla pillola che prendo, che genera un dato recepito dal telefonino, piuttosto che dei device iniettori o inalatori che sono collegati a internet attraverso il telefonino. Questo dà per la prima volta un'evidenza oggettiva su che farmaci sto prendendo, quando e come, che non deve essere pensato e tendenzialmente non è pensato dagli utenti come un grande fratello che mi guarda, ma più come un dato oggettivo che evita problemi di fiducia tra me e il medico. Avendo un dato oggettivo su come sto, su cosa sto facendo per gestire la mia salute, la conversazione tra me e il mio medico diventa molto più produttivo, perché partiamo dai fatti condivisi e non da supposizioni o eventuali, diciamo, sfiducie reciproche. Stiamo parlando di un fenomeno che è appena agli inizi, giusto? Stiamo parlando di un fenomeno che è appena agli inizi, e quello che è interessante è vedere una convergenza di comportamenti nel mondo sanitario e nel mondo consumer, quindi la persona che traccia e condivide l'attività fisica attraverso Fitbit piuttosto che Nike Plus non sta facendo niente di diverso dalla persona che magari traccia le medicazioni che prende o la pressione del sangue o il glucosio e li condivide attraverso un sistema più prettamente sanitario. E questi due mondi stanno venendo insieme in un set di comportamenti che viene nominato quantified self, che è sempre più comportamenti elettivi delle persone e non spinti dall'alto. Quindi stiamo parlando di una tendenza che ci porterà a misurare qualsiasi cosa, in questo caso e spesso volendolo, cioè diciamo volontariamente. Però possiamo anche immaginare che nei prossimi anni molte delle cose che noi facciamo durante il giorno, non so se grazie agli smartphone o a qualcos'altro, vengano tracciate senza che noi ce ne accorgiamo. Magari lo abilitiamo, che ne so, una volta e poi ci dimentichiamo che il nostro cuore venga misurato, la nostra pressione venga misurata. Potrebbe essere questa una tendenza? Assolutamente sì. E quello che è importante per far sì che ciò accade è che tutti noi che saremo a quel punto dei data donor, quindi stiamo regalando al sistema, cosiddetto sistema di big data, i nostri piccolo contributo di data, che noi riceviamo del valore in ritorno. No? Quindi quello che vediamo è che la gente è tendenzialmente felice di dare i propri dati se ricevono qualcosa di ritorno, che può essere che possono essere cose molto semplici, quindi do i miei dati e ho accesso ai dati della comunità, quindi vedo magari come sto io rispetto ad altri, piuttosto che do i miei dati e so che sono utilizzati per la ricerca, come avviene con il sistema 23andMe, in cui io posso per un prezzo molto basso fare il sequencing del tutto il mio genome e nel farlo dono quello alla ricerca e ho come ritorno che se attraverso quella ricerca si scopre qualcosa di pertinenza a me come fattore di rischio nel mio genome, io verrò a saperlo, quindi dono dei dati e ricevo del valore in ritorno. Senti, una domanda che può sembrare scontata: tutti questi strumenti sono scientificamente affidabili? ma è una domanda molto importante, perché si rischia, diciamo, la falsa quantificazione se si quantifica con dati che non sono validi o che non sono accurati. E questo sicuramente succede con alcuni prodotti di consumo, no? Se si è provato con il Fitbit piuttosto che il Nike Fuel, è molto approssimativo come tracciamento dell'attività fisica, per esempio. Quindi, quando siamo nel mondo della salute, il fatto di essere accurato, il fatto di essere affidabile nel dato è fondamentale. Tendenzialmente è anche garantito da quelli che sono i sistemi regolatori, quindi non è questo un problema, se non nel fatto che diventa in qualche modo un freno, un rallentatore al processo di innovazione, perché per essere applicato in ambito della salute deve essere, diciamo, straaffidabile e anche qualche volta oltre l'utile nel garantire la fidabilità. Sì, poi immagino che stiamo parlando appunto di un'evoluzione che è solo agli inizi, quindi anche da questo punto di vista le cose miglioreranno nei prossimi anni. Possiamo anche immaginare che il ruolo del medico sia in alcuni casi meno importante, perché magari sono gli strumenti stessi che, se noi, che ne so, tracciamo tutti i giorni la pressione, automaticamente magari il sistema ci avverte, ci consiglia, o è esagerato questo? Non è per niente esagerato. Difatti i medici, soprattutto i medici di base, oggi spendono la maggior parte del loro tempo a fare delle attività per cui non è necessario un percorso di studi di 9 anni. Quindi si studiano per fare delle cose che poi non sono le cose che finiscono per fare. È fondamentale, è assolutamente fondamentale, che questi nuovi strumenti tecnologici riescano a liberare i medici da alcune attività di routine in cui non serve quel livello di preparazione, non serve quel livello di professionalità, in modo che possano focalizzarsi sul vero attività per cui hanno studiato, per cui sono diventati esperti. Quindi non è una marginalizzazione del ruolo del medico, ma è permettere ai medici di concentrare il loro sforzo dove conta di più e permettere a noi come cittadini di gestirci la propria salute il più possibile da soli dove possiamo. Senti, ti faccio una domanda su un concetto che tu hai già citato, che è quello dei big data. Lo si usa per tantissimi, in tantissimi casi. Allora, in generale parliamo di big data quando una organizzazione, uno stato, un'azienda può raccogliere tantissimi dati dagli utenti. Quindi, ad esempio, il classico esempio che si fa è appunto la capacità, quando si utilizza un'applicazione, se milioni di persone utilizzano quell'applicazione, si possono fare anche delle indagini di tipo statistico su quello che succede. E l'utilizzo di big data è oramai, insomma, una costante nell'era di internet. Molte aziende utilizzano tanti dati per fare delle analisi predittive, per capire cosa sta succedendo nella realtà. Chiaramente nel settore sanità questo è molto, molto interessante, molto, molto utile. Ci puoi spiegare quello che possiamo prevedere possa succedere grazie all'analisi di così tanti dati raccolti dai cittadini pazienti, tra virgolette? Permette due cose parallele. Da una parte permette a chi gestisce i servizi sanitari a fare scelte molto più scientifiche e basate sull'evidenza, sui percorsi di cura in qualche modo da promuovere e standardizzare. Quindi si riesce a capire cosa funziona e cosa non funziona e per quali tipi di pazienti, ed essere molto più scientifiche e meno basati sulla scelta o la preferenza del singolo medico. Dall'altra parte, a noi come cittadini, come singoli, ci permette di fare scelte individuali molto più informati, quindi di vedere anche a livello non solo dei singoli, cioè già guardiamo sui social media per avere i racconti dei singoli su come sono stati con un certo farmaco, piuttosto che quali sono i problemi associati a una certa malattia, ma di vedere anche nell'insieme, statisticamente o comunque a livello di grandi gruppi, cosa funziona e cosa non funziona. Ci sono sistemi già online tipo Cure Together, in cui per qualunque malattia tu puoi guardare quali sono le tipi di terapie scelte da altri pazienti e come loro li percepiscono come efficacia e problemi associati a quella terapia. Quindi questi due poli, da una parte, dall'alto, un approccio più scientifico ai percorsi di cura, dall'altra parte, dal basso, la possibilità del singolo di fare scelte più informate. C'è anche un rischio che questi dati vengano utilizzati senza che noi lo sappiamo dalle aziende? Più che un rischio è un fatto. Non lo vedo particolarmente come un rischio, in quanto le aziende soprattutto vogliono utilizzare quei dati per fare ricerca, per migliorare i propri prodotti e la propria offerta. Certo, vogliono migliorare la propria offerta per fare più soldi, questo è il motivo commerciale dietro, però in qualche modo avere più dati su cui fare ricerca, su cui migliorare la propria offerta, a noi è un beneficio. E capite che questa trasformazione, questo utilizzo degli smartphone, ma poi non solo degli smartphone, anche di tanti altri strumenti che faranno parte della nostra vita. Si dice spesso che la prossima frontiera saranno le tecnologie indossabili. Bene, tutto ciò creerà la possibilità di tracciare, di quantificare noi stessi, come si dice quantified self, questo fenomeno di cui abbiamo parlato. Però, come capite, da questo fenomeno ci si possono fare tantissime domande di carattere scientifico, commerciale, morale, etico, eccetera, eccetera, e quindi è un tema estremamente interessante, estremamente importante. Siete i fortunati ascoltatori della versione podcast del nostro programma. Vi abbiamo offerto l'intervista integrale con Tom Sutton di Frog, una delle persone che nel mondo si occupa per Frog di questo tema, estremamente importante e variegato. E speriamo di avervi dato alcuni spunti interessanti. Bene, il nostro indirizzo di posta elettronica, se volete comunicare con noi durante la settimana, è 2024@radio24.it oppure enrico.pagliarini@radio24.it. Ci trovate anche su Facebook, su Twitter. Noi torniamo la prossima settimana. Vi ricordo che fino alla fine del mese di settembre il nostro orario non dovrebbe cambiare, cioè il sabato nel pomeriggio dalle 15.30, la domenica sempre nel pomeriggio dalle 16.30. Rimarrà ancora il palinsesto appunto estivo fino alla fine di settembre, quindi una mezz'ora scarsa del nostro programma, naturalmente più abbondante in versione podcast. È tutto, grazie ancora per l'ascolto e appuntamento alla prossima settimana. 2024.